Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, mi trovo obbligata a registrare che anche il suo GR, nel parlare di fatti di cronaca, non rinuncia a specificare la nazionalità, se diversa da quella italiana, dell'autore dell'ennesimo brutale atto di violenza. A dirla tutta, questa informazione, data sempre in incipit alla notizia, pare essere la vera e propria notizia, come se si volesse aggiornare un qualche contatore. A tal riguardo, le mie considerazioni sono le seguenti. Se si vuole parlare dell'incidenza sulla criminalità dell'immigrazione, clandestina o meno, credo si potrebbe fare, con maggiore grado di approfondimento, all'uscita degli studi e delle statistiche annuali di riferimento, cercando così di spiegare al pubblico un fenomeno complesso e controverso, piuttosto che genericamente e strumentalmente indurre paure e pregiudizi. Se invece si vuole strizzare l'occhio ad una qualche parte politica, i suoi giornalisti, derogando ai principi di autonomia e di oggettività, non meriterebbero di lavorare in una redazione così prestigiosa. Potremmo suggerire loro di tornare in una qualche redazione minore, abbuffandosi di notizie di ladri di polli. Mi scuso per l'animosità, ma credo che il suo pubblico esiga di meglio. Se ho mal centrato il giudizio, in quanto i malcapitati giornalisti hanno dovuto adeguarsi ad una precisa scelta di direzione, vorrei farla riflettere sulle conseguenze di breve e di medio termine di tale indirizzo. I tanti immigrati che vivono e lavorano nel nostro paese, i cui figli, il giorno dopo l'ennesimo clamoroso caso di cronaca, devono presentarsi a scuola nella loro veste di minoranza, per essere più chiara vorrei dire con la loro faccia dai lineamenti tipici, il loro nome difficile da ripetere, la loro pronuncia, perché devono sentirsi accomunati a tanti anonimi criminali più di quanto io, italiana normale, non debba essere accomunata dagli organi di stampa ai tanti criminali nostrani? Insomma, ho la sensazione che la stampa non ci aiuti a sforzarci. Luisa. Cara Luisa, apprezzo sinceramente la sua sensibilità verso gli immigrati e il suo richiamo a facilitare il più possibile il rispetto e l'integrazione. Ma devo drasticamente smentire le sue ipotesi. I giornalisti di Radio 24 lavorano con grande professionalità e quindi altrettanta autonomia. Non esistono ordini di servizio o indicazioni di qualunque tipo che impongano di mettere in risalto caratteri o elementi particolari, come può essere la nazionalità di chi commette reati. L'impegno di tutti è quello di dare le notizie nella loro completezza e il fatto che un violentatore o un assassino sia un immigrato è una notizia che ci può piacere o non piacere, che può essere più o meno funzionale a dimostrare le nostre tesi, ma che resta una notizia. Mi creda, non c'è nessun compiacimento nel parlare di fatti che vedono coinvolti gli immigrati. Personalmente sono e resto convinto che l'immigrazione non ha provocato un aumento della criminalità e costituisca ormai un fattore positivo e fondamentale dell'economia e della società italiana. Ma ci sono indubbiamente immigrati che compiono reati e questi vanno denunciati e perseguiti. E dei reati più gravi va data notizia, senza i paraventi del politicamente corretto e senza la volontà di adeguarsi a schemi ideologici prestabiliti. La verità, per noi, è quella che è, non è quella che vorremmo che fosse. La scelta delle date da ricordare per una persona o per una nazione è importante. Gli anniversari che festeggiamo dicono molto di noi, del nostro carattere e delle nostre esperienze. Le ricorrenze che da qualche tempo ci vengono imposte dai nostri sgangherati governanti ne dimostrano tutta la pochezza intellettuale. Mercoledì scorso si è celebrato il giorno del ricordo, che meglio sarebbe chiamare giorno dell'amnesia collettiva, perché se si volevano ricordare le vittime della guerra fascista, si dovevano prendere come data quella del 10 giugno 1940, quando Mussolini ci trascinò nell'abisso della Seconda Guerra Mondiale. L'avere invece scelto il giorno in cui, nel 1947, De Gasperi firmò il trattato di pace, dimostra tutta l'ignoranza e la protervia del nostro governicchio. Un paese che ha commesso crimini di guerra in Libia, Etiopia, Spagna, Jugoslavia, Russia e Grecia dovrebbe meditare sul suo passato e non atteggiarsi a vittima. Ma questo presume l'esistenza di una classe dirigente. Claudio Forlì. Carissimi ascoltatori, come ben sapete, il 10 febbraio si è celebrata la giornata del ricordo in commemorazione dei martiri delle foibe. È una data triste per la nostra tanto amata terra italica e intrisa di ancor maggiore mestizia se si parla di verità violata o genocidio consapevolmente celato. Mi indigno nel comprendere che i generali della storia narrino unicamente e con eloquenza ardita le malefatte dei democratici governi occidentali. Qualcuno ha voluto giustificare lo stragismo titino ricorrendo alle malefatte delle truppe fasciste nelle terre slave, come se Marzabotto fosse quantomeno comprensibile e ai carnefici nazisti dovessimo elargire un niveo panno profumato di rose per tamponarsi la ferita di via Rasella. Mamma mia, che idiozia! Inorridisco. Che Tito fosse comunista è relativo, mentre che fosse un luogotenente di Stalin pare spiegare tutto. Un colpo in mezzo agli occhi e giù nel dirupo. Un calcio in pieno ventre dopo lo stupro e giù nel dirupo. Un salto di disperata salvezza e giù nel dirupo. Prima di premere il grilletto hanno preferito non guardarlo in volto per timore di riscoprire quel fantoccio in carne e ossa. Uno che al par di loro fumava, brindava, faceva l'amore, sognava, sorrideva, piangeva e adorava la poesia della natura declamando la vita. Sino a quando l'amor proprio fomenterà il raggio penetrante dell'odio? Sino a quando preferiremo l'ignoranza alla miseria? Claudio, 18 anni, Bergamo. Gentile direttore, martedì il gruppo Piaggio, di proprietà di Roberto Colaninno, ha presentato alla stampa il nuovo sponsor principale dell'attività racing del marchio Aprilia, Alitalia. Sì, proprio la nostra compagnia di bandiera, salvata con ingenti risorse pubbliche e regalata a un manipolo di capitani coraggiosi, tra cui Colaninno stesso, che ha assunto pure la carica di presidente della compagnia aerea. Può anche essere che per Alitalia questo sia il miglior investimento possibile per veicolare la propria immagine. Ma come si fa a non pensare che Colaninno stia utilizzando, anche se indirettamente, i soldi di tutti noi per tenere in piedi il reparto corse della propria casa motociclistica, in un periodo in cui trovare buoni sponsor è estremamente difficile? Sicuramente ciò non costituisce reato, ma credo che un fatto del genere meriterebbe di essere raccontato e commentato. Invece quello che noto è l'incomprensibile silenzio dei mezzi di informazione. Solo pochi mesi fa, qualsiasi notizia che riguardasse Alitalia, anche solo indirettamente, finiva direttamente in prima pagina. Mentre ora un fatto di questa portata non merita alcuna menzione fuori dalle pagine riservate allo sport. Cosa è successo? All'Italia non interessa più a nessuno? O in Italia è il conflitto di interessi a non fare più notizia? Luca. In Italia quasi nessuno si prende l'ergastolo, ma ci sono padri separati che muoiono di separazione. Tempo fa a Milano un padre separato è stato ritrovato morto ormai da un mese, solo perché un ufficiale giudiziario doveva comunicargli lo sfratto. Padre separato, dimenticato da tutti, anche dal figlio. A febbraio 2006 il Parlamento italiano ha approvato la legge sull'affidamento condiviso. Ebbene, dopo 4 anni nei tribunali italiani non è cambiato quasi nulla. I bambini vengono affidati in modo non condiviso, ovvero vengono collocati presso la madre che ottiene così figli, casa e assegno. Ma avete un'idea di come vengano stabilite queste sentenze? Il personale a cui ci si affida è quasi totalmente femminile e femminista. Assistenti sociali, psichiatri, psicologi, giudici e persino avvocati. Io ho più volte detto a questi addetti che mi sentivo spaesato in queste presunte mediazioni condotte solo da personale femminile. Un avvocato mi ha detto che l'unica strategia ammessa è quella del tappetino. Fare tutto quello che vuole la madre e basta. Se poi questa madre per diversi motivi si è messa in testa di ridurti ad un miserabile, alla strada spianata. In quella legge, pur con tutte le riserve imposte da sinistra, vi erano aspetti condivisibili. Ma all'atto pratico non è cambiato niente. Siccome ho trovato nella mediazione aspetti tragicomici, mi sono rivolto ai sindaci e assessori, quasi tutte donne, per chiedere due cose. La registrazione delle sedute e che in queste sedute maschi e femmine si equivalessero. Ebbene, la risposta o non c'è stata o è stata negativa. Nelle separazioni si salvaguardano i privilegi delle madri e non quelli dei minori. Instaurare per legge un conflitto padri e figli è il risultato di 40 anni di diritto di famiglia al femminile. Ho sentito che uno sfaticato di 40 anni pretende di essere mantenuto dal padre. I giudici che acconsentiranno a ciò faranno del bene a quell'individuo o gli faranno del male. Nell'informazione la donna è sempre vittima e se a volte non lo è, vengono portate 1000 motivazioni a sua discolpa. Se la vittima è il padre, nessuno ne parla e se il carnefice è l'uomo, è perché è un crudele e basta. Cesare. In questi ultimi mesi si registra un aumento del numero di licenziati da parte di piccoli, medi e grandi gruppi industriali. Alcuni lo fanno per sopravvivere, non farlo vorrebbe dire indebitarsi a tal punto da dover fallire. Per altri vuol dire ridurre i costi e salvare i dividendi per gli azionisti. Concentriamoci su queste ultime e su tutte quelle che, pur stringendo i denti e utilizzando strumenti di solidarietà interna, potrebbero evitare di licenziare. Quando un'azienda lo fa, non licenzia dei dipendenti, ma licenzia dei clienti. Questi possono non essere diretti, ma lo sono in senso più allargato, ma non meno reale. Licenziare ha due effetti immediati. Il primo è che il dipendente che perde il lavoro spenderà meno, rinuncerà in attesa di tempi migliori. Così facendo, rallenta il mercato interno e internazionale, rimandando così l'uscita dalla crisi. Il secondo non è meno dannoso. Il vicino di casa del licenziato, il parente o il conoscente, facilmente ridurrà le spese per timore che possa accadergli la stessa cosa a sua volta. Risultato netto anche in questo caso è una depressione del mercato interno in primis e poi quello internazionale in seconda battuta. Quanti dei nostri imprenditori o degli amministratori delegati che operano nel nostro paese se ne rendono conto? Marcello. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.